GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ublox, i timori dei sindacati si rivelano reali. La procedura di licenziamento è ancora aperta nonostante la cessione all'irlandese Transa. La zona logistica semplificata è realtà, previste agevolazioni burocratiche, doganali fiscali come il credito d'imposta sugli investimenti. Non sono stanziali, ma ci sono. Il quadro della criminalità organizzata in regione nella giornata per le vittime di mafia. Peggiora la situazione meteo, due le perturbazioni in arrivo con piogge abbondanti, in particolare verso la montagna. A Trieste arrivano i cassonetti intelligenti per la raccolta dell'indifferenziato, oltre 800 entro l'estate, più di 2000 l'anno prossimo. Ricorre oggi la giornata dell'acqua, valgono 20 milioni di euro gli investimenti del PNRR per la gestione idrica nell'attuale quadro di mutamenti del clima. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Nonostante l'annuncio di acquisizione della Ublox di Sgonico da parte della multinazionale Trasna, resta attiva la procedura di licenziamento collettivo dei circa 200 dipendenti. Sconcertati i sindacati che hanno partecipato al tavolo di questa mattina organizzato nella presidenza della regione. Ublox ha sottoscritto un contratto preliminare con l'aspirante acquirente, l'irlandese Trasna. Lo ha comunicato al tavolo regionale liquidatore dell'azienda svizzera, Ettore Del Borrello. Di conseguenza Ublox ritira la liquidazione, ma non la procedura per il licenziamento collettivo dei 200 dipendenti aperta il mese scorso. Netta la contrarietà dei sindacati. Vincenzo Esposito dell'UGL. Devono ritirare assolutamente i licenziamenti di blocco, perché io sono convinto che la nostra società vuole capire un attimino anche il materiale umano che rimane all'interno di questa grande professionalità che è l'Ublox a Trieste. Il liquidatore riferirà la risposta dell'azienda la settimana prossima. L'incertezza potrebbe generare ulteriori fuoriuscite di dipendenti. Oltre 20 di loro, per lo più ingegneri o laureati in materie tecnico-scientifiche, hanno dato le dimissioni per andare a lavorare altrove. Massimiliano Generutti dell'USB di Trieste. Senza le teste che stanno già andando via, quelle che conoscono il business e lo producono, temiamo che all'atto della firma si produrrà una scatola vuota, e questo ci fa temere per il futuro della fabbrica di Sgonico. I sindacati vogliono che si faccia presto, oltre che bene. Ad allungare i tempi c'è anche la procedura del Golden Power. Il settore è tra quelli che rientrano nell'ambito dei poteri speciali del governo. Pochi dubbi che l'esecutivo autorizzerà la cessione dell'impianto triestino, un'azienda europea, ma senza il via libera non si potrà mettere la parola fine alla vicenda. Intanto la prossima settimana sono attesi a Sgonico i dirigenti di Trasna, che visiteranno lo stabilimento dove si fa ricerca e sviluppo per le telecomunicazioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La zona logistica semplificata avrà come perno i tre porti di Trieste, Monfalcone, San Giorgio di Nogaro. Lì e nelle aree retrostanti il governo ha dato il via libera a un regime di facilitazione burocratica e fiscale per le aziende. La nostra regione si era candidata ad averla 3 anni fa per volontà della Giunta Fedriga. L'iter per la zona logistica semplificata era partito 2 anni prima su proposta dell'allora assessore alle infrastrutture Pizzimenti, coadiuvato da quello alle attività produttive Bini, con la definizione di un suo piano di sviluppo strategico che ne definiva perimetro ed estensione, 26 comuni per oltre 1.400 ettari che comprendono i siti produttivi più importanti collegati ai porti e interporti della regione. Col via libera del governo, ora la zona logistica semplificata è realtà. Alle imprese che vi sono già insediati o di prossimo insediamento garantisce semplificazioni burocratiche, agevolazioni doganali e benefici fiscali come il credito d'imposta sugli investimenti, oltre a servizi di logistica e infrastrutture avanzati. Macro aree come quelle che si sviluppano dall'interporto di Pordenone, dal Consorzio di Sviluppo Economico per l'area del Friuli, che va da Gemona a San Giorgio di Nogaro passando per Udine, dal sistema portuale Trieste-Monfalcone da Porto Nogaro, avranno meno vincoli per mettere a terra i propri investimenti e potranno crescere più facilmente. L'obiettivo è anche favorire uno sviluppo organico degli insediamenti produttivi strettamente connessi al sistema logistico. Una buona notizia per il Friuli Venezia Giulia, l'ha definita il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani nel darne annuncio. Un risultato importante. Abbiamo creduto fin dall'inizio nella strategicità di questo strumento, che offre nuove prospettive di crescita alle imprese e rende più attrattivo il nostro territorio, commenta il presidente della regione Fedriga. Esprime soddisfazione anche l'oggi deputato Pizzimenti, rimarcando che si è trattato di un lavoro lungo e impegnativo, costruito insieme a enti enti locali e categorie, si conclude un percorso virtuoso e si apre un nuovo importante capitolo nella storia economica della nostra regione, rilancia l'assessore Bini. Dal mondo delle imprese, il primo commento del presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti, che la ritiene un'opportunità per valorizzare ulteriormente la posizione strategica del Friuli Venezia Giulia come snodo logistico tra l'Europa centrale e il Mediterraneo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La regione Friuli Venezia Giulia, pur godendo di autonomia, non ha il potere di fissare un fabbisogno regionale per le strutture di accoglienza dedicate ai minori stranieri non accompagnati, oltre il quale impedire l'apertura di nuovi centri. Lo si legge in una nota dell'ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, secondo il quale il sistema di accoglienza è regolato a livello nazionale da decreto legislativo in combinazione con la legge Zampa. La normativa, scrive l'ICS, prevede che un minore possa essere collocato in un comune diverso da quello di competenza, purché ciò avvenga nel suo superiore interesse. Come tutte le altre regioni, il Friuli Venezia Giulia può stabilire parametri organizzativi e standard di servizio. Può anche esercitare un potere autorizzativo sulla localizzazione delle strutture, ma solo in presenza di un'anomala concentrazione o nel caso di centri di grandi dimensioni. Tuttavia, non può negare arbitrariamente l'accoglienza ai minori stranieri non accompagnati provenienti da altre regioni, né di subordinarla a scelte politiche. La nuova normativa regionale sulle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di prossima pubblicazione appare dunque illegittima sotto diversi profili, conclude l'ICS nella nota. Sono 7 le partecipanti più meritevoli tra le iscritte al corso per parrucchiera rivolto alle detenute del carcere del Coroneo di Trieste, che oggi ricevono gli attestati di crediti formativi spendibili per la qualifica professionale di acconciatrice all'Istituto Apprendimento Lavoro Torigial. Con loro anche le altre partecipanti al progetto Sì, si sostiene nel carcere del Coroneo, obiettivo emancipare dalla dipendenza economica e dall'inferiorità socioculturale per migliorare la qualità della vita nella detenzione e favorire il successivo reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. E oggi è la 30ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie. Tra i tanti eventi organizzati oggi in regione, Udine ha ospitato un convegno. Non sono stanziali, ma ci sono e hanno tanti volti le mafie che operano sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Come confermato dall'ex procuratore distrettuale antimafia Antonio De Nicolo e indicato nell'ultima relazione al Parlamento della DIA, in regione non ci sono strutture mafiose fisse, bensì interessi economici, in quanto si investe e la criminalità organizzata ha interesse a tenere basso profilo per continuare ad agire indisturbata. In occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, all'Università di Udine sono stati tratteggiati i vari volti criminali che operano in regione. Il presidente della Corte d'Appello di Trieste di recente aveva evidenziato che il Friuli Venezia Giulia è transito del traffico internazionale.